Ma io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei in mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, eh? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Cialtroni, lo dice Ferrero, perché chi lavora viene indicato male. Io non sono un Conte Max, sono Massimo Ferrero, sono uno del popolo e voglio l'onestà intellettuale. La gente deve andare a lavorare e non deve chiacchierare. Allora, adesso tutti dritti, Radio 24, tutti sulla senti, Cruciani fa una domanda seria. Vai Cruciani! Allora, la battuta più bella di oggi, ragazzi, è questa. Sapete che è stata purtroppo stuprata una ragazza di 16 anni nei giorni scorsi a Roma, no? È stato beccato non un tunisino, non un magrebino, non un extracomunitario, bensì un italianissimo, addirittura un militare. Un militare di 31 anni, uno sfigato, un coglione, un criminale. Allora, la battuta più bella l'ho letta qualche minuto fa. A Salvini è andata male, a stuprare la minorenne non è stato un migrante. La Sant'Anchè, chiudere tutte le moschee. No, le caserme. Allora dico, chiudiamo tutte le moschee. C'è la proposta di legge a prima firma mia, Brunetta, si capisce che con la Boldrini è un po' difficile ottenere la calendarizzazione, ma non molliamo. Poi dice che sulla spiaggia di Tunisi c'è stata una carnecifina. In Italia c'è paura, abbiamo tutti paura, i cittadini hanno paura. Vedere un uomo col Kalashnikov sulle spiagge che spara, che fa una carnecifina. Com'era, scusa Parenzo, riesci a dirla o no? Carneficina, io no, dico. Carnecifina. No, aspetta, carneficina. Carne... O carnecifina. No, no, no. Carneficina. No, carneficina. No, carneficina. Carneficina, sì, così. Carnecifina è più bello, però. No, carnecifina. Carnecifina, cioè la è più carne. Bello, sì. Cifina. Cifina. Affina. Esatto, carnecifina. Oh, di nuovo buon anno contro Carabueno. Stavolta senza Palandrana. Buon anno dice. Spesso dice le stesse. Torni a casa sua, ma quello è italiano. Signor Carabue. Torni a casa sua, forse quella di origine, del signor Carabue. Capito, avete rotto le palle di venire in Italia come andare. Lei che parla tanto, torni al suo paese a spiegare le cose. Allora, perché l'Italia l'ha costruita. Gliel'ha già detto l'altra volta. Buon anno, gliel'ha già detto l'altra volta. E poi dice a calci nel culo, avete rotto i coglioni. Carabue resiste in Italia. Lei lotta in mezzo a noi. A calci nel culo, onorevole. A calci nel culo, avete rotto i coglioni. Si calmi, buon anno. Si calmi, buon anno. Avete rotto i coglioni. Sì, abbiamo capito sia le parole che il concetto. Buon anno. È un concetto chiaro, non lo ripeta. Mantenga un linguaggio ortodosso. Io mantengo quello che mi pare e le dico che gente come lei non deve stare in Italia perché voi fomentate l'odio. Permette. bisogna dire una cosa, Parenzo, che allora a Milano vogliono costruire altre moschee, no? A mio parere bisogna andarci molto cauti con queste moschee, molto perché? Molto per cauti. Qual è il problema? Beh, molto tranquilli, molto cauti, controllare, cioè non è scontato. Siccome noi nei paesi islamici non possiamo fare una mazza, se tu non è che possiamo mettere una chiesa in un paese islamico. Ecco, non mai immaginavo questo argomento. Temevo lo tirassi fuori. No, io non ho detto... La reciprocità, una stupidaggine. No, eclatante. Non è una stupidaggine. Eclatante, perché se loro da questo punto di vista sono meno democratici e civili di noi, non è che noi che siamo il forte, ricco, secolarizzato occidente e democratico dobbiamo far come loro. Ma che stupidaggine. È un argomento, questo no, qua no, mancava. No, io non sto dicendo di non talmente farlo. Talmente stupido. Dici, ma in Tunisia, ma lì in Arabia Saudita non ci... E chi ha mai detto che l'Arabia diritto, Saudita è democratica? Ma non è un infatti. Diritto, non è un diritto. No, ma però, non è un diritto. Mettiamoci d'accordo, non fare sulla la moschea logica. Non è un diritto, eh. Come no? No, non è un diritto. È sancito dalla nostra Costituzione. Ma no, fare, costruire la moschea costruire no. Costruire solo chiese si può. Ma no. Ah no, fammi capire, e Scientology, la chiesa ci può costruire, no, Scientology. Non dire stronzate, dai. Su. Qual è il punto? Qual è il punto? Il punto è la che l'Islam moschea, tu hai deciso ah, no, aspetta, che la moschea ti non faccio, si può ti faccio sentire io qual è il punto. Illegaioli. No, ma non dire stronzate, io non ho detto niente di tutto ciò. Ma ti faccio sentire che cos'è anche per me soprattutto l'Islam. Una signora che è stata, i cui familiari sono stati arrestati, italiana che si è convertita all'Islam e poi anche militante dell'ISIS, una tale Fatima diceva prima che di scappare in Siria, adesso hanno arrestato pure tutti i suoi familiari in Italia, Fatima, credo Sergio di cognome, Fatima Sergio, si chiama credo Maria Giulia o Giulia, una cosa del genere, diceva non dobbiamo eccitare l'uomo. Ecco, io preferisco la società occidentale dove la donna fa eccitare anche col nudo continuamente l'uomo. Io sono italiana convertita all'Islam. L'Islam dice indossate eccolo. Un abito che non ecciti gli uomini, sì, che non sì, sia... Questo poteva andare bene nella... C'è una grossa differenza. Allora... Recentemente anche il marito, se non sbaglio, il marito diceva già di amare Allah. Perché si è convertita? Come mai si è convertita? Non lo può dire. Perché io amo Allah, perché Allah è unico, Dio è unico e il profeta Muhammad è il profeta e il messaggero di Allah. Questa era la mamma, è la mamma. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Abete contro Meloni ieri sera, Ballarò, sempre sull'euro, queste robe qua. La scelta si appende, cioè, quindi sì. Abbiamo speso 5 miliardi di euro, ma... perché così voi delle banche date i mutui perché avete il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma che sta dicendo? Ma io non so. Ma lei è veramente improvvida, dai. Permette che io le spieghi con un po' di tranquillità che un non lavoratore. Non mi pare che sia tranquillo, prima. Ma secondo, cioè, non ho niente però, da farmi spiegare da lei, se posso dirla sinceramente. Ma se non c'è l'attenzione, e penso che gli italiani si debbano interrogare su perché un esponente del mondo bancario difende così il governo italiano. Penso che questo sia il problema. Se la vogliamo dire tutta, penso che questo sia il problema. Allora, Berlusconi stavolta, dicono i giornali, potrebbe pagarla cara, potrebbe essere addirittura, potrebbe, secondo la Repubblica, andare in galera per la questione delle olgettine, oltre 10 milioni di euro pagati, 7 a a Ruby Rubacuori e ad altre signorine, chi ha preso 100.000, chi ha preso 200.000, chi ha preso pure la macchina, eccetera eccetera. Vittorio, ci sei? Ci sono. Dove sei? Sto andando da Roma verso Milano per Ma parla scuole. Più forte, sennò non ti sentiamo. Sto andando da Roma verso Milano per le scuole. Vai in macchina? Sì, però devi togliere l'auricolare, sennò non sentiamo niente. Non so niente, se assolutamente il mio telefono funzionerà male. Ma no, devo dire che mi pare molto più grave se la Procura di Milano avesse un senso, se Cantone si occupasse della verità, vedere come la Bracco e i responsabili del Padiglione Italia abbiano speso 100 milioni nostri, non suoi, sì? 100 milioni nostri per un padiglione in cui c'è solo un guttuso che vale 80.000 euro. Cioè, questo è il dato vero. Cioè, tutto il resto è uno schifo. Tutto il resto è uno schifo. La Corte dei Conti fare un esposto per dire: ma i soldi per andare a spiare quello che fanno le donne da Berlusconi sono nostri? E perché devono essere spesi per operazioni di voyeurismo? Quello dà i soldi a chi vuole. Le ragazze dicono quello che vogliono. Se vogliono, raccontano anche delle balle. L'indagine deve essere capace di verificare se l'hanno assolto, vuol dire che le menzogne eventuali, anche se ci fossero, non sono state sufficienti a dargli ragione più di quanto non fosse nel dato base, che lui non sapeva che questa era minorenne, e le altre cretinate. Cioè, spiare un uomo e incriminarlo per degli atti privati con soldi suoi è un crimine dello Stato. Occorre perseguire Brutti Liberati e gli altri che spendono soldi nostri per sapere che cazzo ha fatto Berlusconi. Cioè, tu dici, è una cosa inaudita, la Corte dei Conti. E poi a Cantone, come ho cercato di verificare come sia possibile, in un posto divertentissimo come l'Expo, ogni padiglione è costato 3-4 milioni di euro, l'Italia 100 milioni, no, 100 milioni di soldi nostri, non se posso più. No, no, ma questo... Poi l'ho rivisto l'altra sera, prima Bondi lo abbandona, segnale di per sé. Ma chi? Poi, Berlusconi? Poi le due ragazze gli portano Vladimir Lussuria. Non c'era neanche una ragazza, ormai completamente lasciato in una specie di estatica situazione di una visione così in cui non c'è più. Ma, dico, ma perché mai? Perché uno con i soldi suoi? A uno con i soldi? Dico, ma quando Briatore sposa la Gregoraci saranno soldi suoi? Sarà la vita sua? Quando Onassi sposa Kennedy saranno soldi loro? Sì, e l'unico che non può spendere soldi due donne Berlusconi. Tu ma sai che cazzo vogliono? No, dobbiamo, ma questo io su questo dobbiamo fare la denuncia alla Corte dei Conti. È no. ora di finirla. No, vabbè, ma d'accordo. 5 anni. No, ha ragione Sgarbi in una cosa, ma se Berlusconi è stato assolto dai processi precedenti, no? Dai processi precedenti, ora dovrebbe cadere anche questa roba qua. Cioè, falsa testimonianza per che cosa? Cioè, cadrà, ma infatti non è detto. Se era falso, l'avevano verificata nel processo. Se si accusano di falsa testimonianza, i testimoni che hanno portato alla soluzione, corruzione, atti giudiziari, quello che sono tolti, non capiscono? Ma comunque, qualunque cosa dicessero queste ragazzotte, non contava un cazzo, perché mancava Lupi Consista. Scusa un attimo. Lui in realtà per la seconda volta è uno ricattato da Ruby e da quelle ragazze. È lui la vittima. Ma perché non ha mai denunciato allora? Scusami adesso. Soldi suoi, non soldi dello Stato. Ma, perché spende? No, puoi avere ragione, ma perché non ha denunciato allora se ricattato, come dici ma tu? Dico ricattato è il massimo del reato possibile. Ma uno può benissimo pagare, sai, è la stessa cosa della mafia, se la mafia ti ricatta puoi anche pagare, forse gli piaceva pagare, forse lui mi ha detto, dato mille volte, che queste casse completamente sputtanate, e lo sa anche perché io so una cosa segreta, che Cruciani è stato fidanzato con una ragazza, quelle che stavano con Berlusconi, la quale non trovava lavoro, stata con Berlusconi, e hanno portato via i computer, l'hanno sono arrivati a casa sua come se fosse una mafiosa, intollerabile! No, vabbè, ma non sapevo sta storia. No, adesso, ragazzi, precisiamo una cosa. Innanzitutto, Sgarbi si deve sentire meglio perché si sente lontano. Ogni tanto va e viene la linea. Allora, Sgarbi dice: tu hai avuto una ragazza, sono entrati in casa, l'hanno portato via il computer e il resto, come se fosse una delinquente? No, ho conosciuto. Diciamo che ho conosciuto una ragazza. Tu dici adesso ci sono stato, eccetera, eccetera. Che effettivamente, vabbè, questo è rilevante. Poveraccia, si trova in una situazione in cui non lavora più. Una di queste oggettine, non lavora più. E una volta sono entrati dei poliziotti. E tu hai avuto una storia. Ma sono questa. Cazzi miei se ho avuto una storia. No, va messo, ma che non tutto, è nessuna, come dici tu, ma no, non ha nessuna importanza. Però lui potrebbe andare in tribunale a testimoniare di questa ragazza al lavoro soltanto perché è stata sputtanata e viene sputtanata e offesa e le sequestrano il computer semplicemente perché ha dato a lavorare per un fuori. Ma che roba è? E Francesca Cipriani, chiamata prostituta, perché è andata a casa sua e gli dava del lei, ero presente io, gli dava del lei, sì, è andata a casa, sì, ma c'era scritto si consulta con l'Ele Mora per prostituirsi. Ma che roba è? Ma chi sono questi magistrati? Sì, cosa diffamano? No, adesso paghino i soldi che buttano via per intercettazioni inutili. Adesso lui dice che Berlusconi, loro dicono che Berlusconi avrebbe pagato le false testimonianze di questo oggettino. Aspetta, Vittorio, devo dare il traffico, e qui è un'interruzione continua. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. Allora, la tesi di Vittorio Sgarbi è molto chiara. Berlusconi può avere pagato anche 10 milioni, ma non ha niente a che fare con la corruzione, oppure può anche avere pagato per non far parlare queste persone. E allora perché i magistrati devono spendere soldi e soldi per indagare sui motivi di questi passaggi di denaro? Però c'è una questione, ma 7 milioni di euro a Rubi Rubacuori, Vittò, 7 milioni di euro, ma ti pare una cosa normale? Questa è una presunzione dell'accusa. Poi il problema è questo: un reato che cos'è? È un'azione che tu fai a danno di qualcuno. Sì. E questo a danno di chi l'hai fatto? Cioè, in teoria per far mentire queste qua in tribunale. No, però appunto la corruzione di testimoni. Loro hanno acclarato, i magistrati, indipendentemente da quello che questi hanno detto, che poi è tutto irrilevante, quello che hanno detto, perché ha raccontato. Beh, magari proprio per quello che hanno detto l'hanno assolto. No, perché loro hanno acclarato indipendentemente da quello che hanno detto queste donne. Che vero, ma è un altro processo però. No. Ci sono due processi diversi. Ma questo è chiaro che ci sono due processi. No, ma questo è il punto però. Il reato è uno solo, è un rapporto con una minorenne pagandola, non con una minorenne, la minorenne la puoi avere da 14 anni in su, artis. La paghi, nel momento in cui la paghi, qualcuno deve dire Berlusconi non ha fatto niente con lei, ovvero non sapeva che fosse minorenne. Cioè, insomma, secondo te Berlusconi, i giudici stanno spendendo denaro pubblico inutilmente? Per un reato che non esiste, perché il reato chiede un vulnus contro la pubblica amministrazione, contro qualcuno, ma contro chi? Se uno difende se stesso dando dei danari a una donna, la quale è sua amica in quanto prende danari, dirà quello che vuole. C'è scritto che doveva dire, ha detto esattamente quello che io ho visto, interrogo per me, che non ho avuto soldi da nessuno, e gli dirò che ho visto le cose che ho visto, cioè niente. Cioè mai sesso, non hai mai visto sesso, mai visto. Vabbè, magari lo facevano di notte, che ne sai. Sì, ma quello era lecito. Ma pure tu sei stato condannato oggi per diffamazione, che è successo? Sono stato condannato a fatto, quella è la solita cosa, come sempre, di uno Stato che non funziona, per cui un signore fa sequestrare, dicendo che sono falsi, dei quadri veri, e tu non lo puoi dire. Ma poi tu a casa tua hai un quadro Vero. Accusato di incompetenza e plagio un tizio, che non so non che cazzo è. Sono assolutamente certo, mi dimostri che quei quadri sono falsi, dimmi chi li ha fatti. Sono veri sicuro quei quadri? Così. È tutto così, sono assolutamente autentici, quelli che li ha comprati assolutamente con la certezza di ogni perizia possibile. E questo qua e perché ti hanno condannato, scusa? Per diffamazione? Perché non c'è giustizia in Italia, perché ho detto che un incompetente è un incompetente, come è un incompetente, come ripeterò l'inchiesto che è un incompetente, e che non mi dimostrerà che aveva ragione. Quando senti, ma il padiglione Italia va chiuso, bombardato, distrutto, togliendo prima la Vucciria, naturalmente, di Guttuso. Anche se distruggono quello non capita niente di male, non è un capolavoro. Però sto dicendo che 100 milioni nostri in quel padiglione sono un crimine palese. 10 milioni di Berlusconi sono cazzi suoi. Sì. È quel dato classico. Sì, no, questo è vero. 100 milioni, 97, 98 milioni per fare il padiglione Italia. Io l'ho visto che è una porcheria. È una porcheria. Questo è un giudizio estetico. Questo è un giudizio estetico. No, ma sono soldi buttati perché non è fatto per niente. Tu devi fare una cosa che serve. Fai un museo, fai un'università, fai un padiglione per contenere un quadro. Ma chi prende per il culo? Sì, quattro piani. No, ma può essere vero, ma uno può dire che il padiglione, che so io, del Brasile o del. Per carità, quello va chiuso per altri motivi. Ma tu lo dici del Dubai. Questo l'abbiamo pagato noi. Sì, no. Sto dicendo, ma non voglio che poi altre inchieste. Dico, la Procura di Milano potrebbe chiedersi perché si spendono soldi pubblici in modo così assurdo, e non perché Berlusconi spende i soldi suoi come cazzo vuole. Questo che sto dicendo, cioè, è una metà. Loro dicono che li spende per far dichiarare il falso a queste qua. E poi, anche se avessero dichiarato il falso, la Procura nel momento in cui ha fatto le sue indagini, qualunque cosa dicessero loro, ha giurato l'opposto e ha fatto i loro danni. Il giudice ha visto tutto, le testimonianze loro, la sentenza finale è quella che dice. Ma secondo te, questo l'ho capito, ma secondo te Berlusconi alla fine 7 milioni a questa Karima Elmakrug Rubi Rubagori, alla fine se l'è fatta o non se l'è fatta? Vito, tu conosci bene tutta... dai, su, arriviamo alla conclusione, o no? Ma la mia opinione personale è che se la sia fatta, la sua interpretazione è che non se la sia fatta, però non sono fatti che ci riguardano. Sì, lui non ci riguarda, è vero, non ci riguarda, ma la mia curiosità, se è fatta o no, non se l'è fatta? No, alla non fine. Lo so, non è che a me ha detto sempre di no, però voglio dire, uno può anche dire la di tua no. Impressione, la tua impressione è che alla fine se la sia fatta? Ma io credo che una figa deve essere fatta, cioè tecnicamente parlando, ma tu per cosa la vedi una figa secondo te? Sì, farci, no, certo, per no, però c'è gente anche che guarda, c'è gente che guarda, c'è gente che guarda anche, si diverte anche a guardare. No, no, ma quello riguarda un vizio particolare che, quello sì è un vizio, ma una ragazza bella ti viene a casa, sì. E tu per cosa la fai venire a casa? E lei perché viene a casa tua? Sì, certo. E cominciamo a studiare. Uno va a casa di Berlusconi o a casa di Cucciari, sì, sera, sì, dorme, sì, lì. Sì, perché sì. Dorme lì? Per giocare a Birilli, no, giocare a Dama? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. So. Che poi sia stato consumato, no, questo è un altro discorso. Vabbè, Vittorio, ti saluto, ciao, ciao. Ti sei innamorato? Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione economica e collaborazione con Reale Orario Vio F***. Sonto per valorizzare l'autovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Sono le 19. La Zanzara. Allora ragazzi, prima di farvi ascoltare il clamoroso intervento ieri sera qui alla Zanzara, era tardi, di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che ha usato parole durissime nei confronti... Chi è? Chi è? Ferrero, fa così sempre... Prima di farvi ascoltare Ferrero, che ha usato parole durissime nei confronti soprattutto del presidente del Catania Pulvirenti, che ha ammesso di aver pagato 100.000 euro a partita... le ultime partite del Catania per salvarsi dalla Serie B, ha anche pronunciato una frase "deve morire", che a mio parere è stata anche mal interpretata, perché molti dicono "deve morire" come se Ferrero volesse veramente dire o volesse augurarsi la morte di Pulvirenti. È evidente che è un'espressione anche romanesca quando dice "tu devi morire", cioè sia devi scomparire dalla circolazione nel calcio, non voleva dire "devi morire" in senso tecnico, adesso voglio dire, però l'ha detta quella frase, non era come l'hanno interpretata tutti a mio parere. Però vorrei aprire una piccola parentesi su Renzi, che oggi ha detto una roba, cioè di essere contrario in sostanza al referendum greco. Ora va bene tutto, però che lo dica Renzi, il quale è a Palazzo Chigi senza essere stato eletto, è piuttosto curioso. Cioè la democrazia va sempre bene quando si vota, poi lasciamo perdere, era il caso di una mossa tattica, un errore, queste sono cose su cui si discute da giorni e che qui alla Zanzara per fortuna ce ne fottiamo totalmente di queste cose, perché altrimenti vi faremo due palle così. Però io faccio una sola considerazione: Renzi non è stato eletto da nessuno per adesso e dice che il referendum greco, dove si decide se accettare o meno, poi che cosa non si sa, perché in realtà è questo piano, no? Questo cambia continuamente, per cui su che se vota uno dovrebbe... È chiaro che è un voto pro o contro i creditori, no? Va sempre bene la democrazia, cioè il voto della gente va sempre bene. Beh, però scusa. Sì, ma va sempre bene, ma, ma non va bene manco quello. Sì, non va ma bene certo il referendum. Che messa così non è chiaro che dici va sempre bene. Non ma va bene il referendum. È una stupidaggine clamorosa. Va bene votare, ma per te quello che decide me, la gente. Sì, se... per carità. No, ma la gente va benissimo. Figura sull'aborto, il divorzio, questi temi qua etici che riguardano la vita. Su questa cosa sì. Qua non si può votare. Ma su questa cosa qui tu ci sono strumenti. Io dico. Ma io non è che ti ho detto, cioè, che tu il memorandum tu me dai in mano, lascio, un greco. No, non voglio sentire la parola appunto, memorandum, ma non appunto, voglio sentire la parola siccome memorandum. Già tu non vuoi sentire la parola memorandum, no? Ad esempio, sì. Ma secondo te, ma un greco lì Panaguli Guliguli, ma lì si vota che... ma lì si vota, scusa, non pigliare per i culi, no, greci, no. Lì si vota, là si vota pro o contro una non strategia, una moneta, una proposta di, sì, rientro, vabbè, ma nel concreto non è mai così, ma nel concreto, no? Tu sai quali sono le posizioni? No, probabilmente anche l'85% dei greci lo sai. Ma l'85% dei greci si trovano a dover decidere se è giusto che l'IVA passi dal 13 al 20. Ma è sì o contro Tsipras, volete che continui a governare o che e non continui a governare? È una questione politica, ma non è certo, economica, ma che riguarda sempre il una questione politica, paese. È sempre, no, una questione è politica. È una responsabilità che Tsipras si deve prendere, arrivederci, grazie, scusa, vabbè. Ma che roba è? Massimo Ferrero ieri sera alla Zanzara, iniziamo. Pulvirenti. Ma tu, a uno come Pulvirenti, che dice che pare che abbia confessato di essersi comprato le partite a 100.000 euro, ma che faresti? Butteresti la chiave? Che faresti? Nella vita bisogna essere seri. Non, questo signore io non lo conosco, però questo signore deve essere radiato dal calcio, perché il calcio è sport. Certo. Il calcio stiamo cercando di fare... di portare le famiglie, di vedere, ti diverti, emozione. E come cazzo si permette questo a fare queste cose? Deve essere radiato. No, ma questo radiato. C'ha, su questo c'ha ragione Ferrero. Cioè, ma... radiato, io lo voglio sempre. Vabbè, a me mi fanno schifo questa gente. Perché non cerchiamo di non sporcare la cosa più bella del mondo. Cioè, uno che dice. È rimasto solo questo. La domenica andiamo allo stadio a vedere questi gladiatori che giocano a pallone. Ma non voglio manco sapere, mi fa schifo, guarda. No, mi ma. Fa ribrezzo. Uno che ha convinto. No, i suoi... non deve proprio buttare la chiave, non deve proprio. Deve morire finito. Quindi deve morire. Proprio non deve esistere. Devono fare delle regole. Delle regole. Che questa roba non deve esistere, perché deve essere radiato lui, il campo, la squadra, tutti, perché non è possibile, c'ha ragione. Non si tratta di esordi qui, si tratta proprio di essere della gentaccia. Sì. Punto è questo, ragazzi, ma uno che per salvarsi e poi. Non esiste, deve morire, non si deve salvare più nessuno, perché come ti permette, questo dovrebbe prendere tutti i giorni schiaffi. Ora, ripeto, sono frasi fortissime, è evidente, no? È incazzato con Pulvirenti perché secondo lui sporca l'immagine del calcio. Però io non voglio dire una cosa a difesa di Ferrero, perché si difende benissimo da solo. È un modo di dire, anche Romano deve morire. È chiaro che non si augura la morte di quello, no. Si augura che scompaia dalla circolazione. Che scompaia dalla circolazione del mondo del calcio. Non è che si augura la morte di Pulvirenti. Però, oh ragazzi, quella è la frase. Su Lotito, presidente della Lazio, sentite. Lotito, ti ha mai consigliato una maga? Adesso ti faccio calmare un attimo scherzando. Ma io non so che bordi sta cosa. Ma anche tu a me Lotito non mi consiglia niente, non è all'altezza di consigliarmi niente nessuno. Consigliami te qualche cosa. Se posso andare a vedere un peschereccio, che così mi la compra un po' di pesce a meno sordi, va. Lotito è una brava persona per quello che mi riguarda, però ma perché mettono in mezzo sempre, perché fanno notizia, non capisco. Cioè lo mettono in mezzo, Lotito? Dici, lo mettono in mezzo per niente. Ma che c'entra adesso Lotito? Ma che ne so, avrebbe Lotito parlato. Una brava persona. Avrebbe parlato con... Lotito è uno solo che dovrebbe fa solo delle leggi che non stanno bene alla gente, e lavora troppo e si fida di tutti, non so, perché parla troppo, si facesse un po' più dei cavoli sua forse. Siamo qui 800 24 00 24, andiamo dove andiamo. Enzo, provincia di Brescia, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Buonasera Parenzo. Ecco, io volevo semplicemente dire in merito alla chiusura delle moschee che io sono completamente favorevole. Sì, perché cioè le moschee vanno chiuse, siccome c'è il terrorismo islamico, rischi di infiltrazione, gente arrestata, gente espulsa, eccetera, le moschee in Italia vanno chiuse. Con quale risultato? Perché secondo me sono dei luoghi di reclutamento dove ti fanno il lavaggio del cervello. Che vuol dire? Perché secondo me un ragazzo di 24 anni che vive in Europa, nasce in Europa, studia in Europa, è laureato e diventa kamikaze, va a farsi esplodere, secondo me è una persona debole a cui è stato fatto anche il lavaggio del cervello, però. E anzi, io direi un'altra cosa, che io adesso come adesso boicotterei completamente le vacanze verso i paesi a rischio, Medio Oriente, Egitto... Cioè non ho capito, che cos'è che faresti? Boicotteresti le vacanze nei paesi arabi? Ragazzi, che vuol dire? A parte che non ci va nessuno in vacanze nei paesi arabi. Sì, però in Tunisia ci vanno ancora. No, nei paesi quelli diciamo un po' più transisti, diciamo. No? In Arabia Saudita, sì, ma certo. In vacanze in Arabia Saudita. Anche in Siria. Egitto, Mar Rosso, basta. Cioè, ma che vuol dire boicottare? Non ho capito, cioè perché dovremmo boicottare l'Egitto? Non lo sai manco tu. Cioè. No, come forma di protesta, cioè queste, alla fine come lo troviamo la soluzione a questo problema? Ma qua. L'Egitto, lei lo sa che è uno dei migliori alleati dell'Occidente, ad esempio, l'Egitto, dice boicottiamo l'Egitto, ma perché? Va bene Enzo, grazie, Andrea, provincia di Pavia, dai Andrea. Perché è una follia, perché? Dai. Sì, pronto? Vai, dimmi. Sì, ciao, no, volevo spiegare a Parenzo perché le moschee non si possono aprire. Io sono vice sindaco a Vigevano e cercheremo di chiudere anche quella che c'è, perché la regione islamica non rispetta quelli che sono i presupposti della nostra Costituzione. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? No, aspetta, Parenzo? Andrea è vice sindaco a Vigevano, che è una cittadina importante vicino a Milano. Certo. Che anche appena sempre... rieletti, tra l'altro, appena rieletti proprio della Lega? Volete chiudere? Volete chiudere l'unica moschea che ci avvigeva, no? C'è una moschea che poi non è una moschea, ma è un centro di culto, quello che... perché loro se... ci sono alcune alcune ragioni per le quali riteniamo che non possa rimanere aperta, e se ce la faremo. Ma ritenete voi o lo ritiene la polizia? Perché è una cosa diversa. Lo ritiene la polizia è un conto, se lo ritenete voi, ci sono delle ragioni tipo anche edilizio urbanistico. Vabbè, ma tutte solite scuse stupide. Scusi, il risultato sa qual è? Quello che questi qui vanno, questi islamici, molti, voi pensate che ci siano infiltrati in mezzo, e può anche essere. Il risultato è quello chiudendo tutto non sapete più dove vanno a pregare, ed è ancora più rischioso. Uno di quelli che ha fatto l'attentato in Tunisia si stava per imbarcare in Libia per venire in Italia, per essere precisi. Non ho capito, chiude le chiese perché ci vanno i mafiosi, non credo, no? Non è che lei chiude la chiesa perché prima andava a messa. La chiesa e la religione cristiana secolarizzata rispetta gli usi, i costumi, soprattutto le leggi di questo paese. Ma fosse vero, quel che lei dice, noi abbiamo un milione di musulmani, non mi pare che abbiamo un milione di terroristi. Io ti consiglio di leggere, Parenzo, un bellissimo libro di Ayan Yirziali. Invece ragiona sulle cose, invece che sempre io non ho capito una cosa, perché lascia perdere i libri, perché vuoi chiudere la moschea? Non ho capito. Perché è della Lega, non c'è una ragione, una ragione politica. Una serie di problematiche anche in quel quartiere che rende quel quartiere scarsamente attrezzato, scarsamente vivibile, ma sulla base di presupposti che ci sono, che riteniamo ci possano essere, problemi di tipo edilizio, Ma quello è un altro discorso. È un'altra storia, ma è una scusa, capisci che è un pretesto? Ma è un pretesto per preservare i nostri cittadini. Va bene, è una battaglia politica, è un pretesto la cosa edilizio. E io ti dico che sarei d'accordo nel momento in cui non fosse la regione. Vai contro la Costituzione a non dare luoghi di culto agli altri. È la religione islamica che va contro la Costituzione, Parenzo. Ma cosa sta per te l'Islam? Quali sono i pilastri su cui si basa la religione islamica? Andrea, sono contro la Costituzione. Cioè per te l'Islam, dunque, un islamico in Italia va contro la Costituzione, fuori legge. Religione islamica, tu prima non sapevi dare a Parenzo una spiegazione. Tu leggiti il Corano, leggiti i precetti della Quindi un islamico è fuori legge, giusto? Quindi l'onorevole Ciauchi del PD è fuori legge? Questo stai dicendo, perché bisogna andare fuori in fondo. Io sto dicendo che l'onorevole Ciauchi, se difende quelle che sono dettami della religione islamica, è fuori legge. La poligamia, la mancata equiparazione tra uomo e donna, non rispetta le nostre leggi. Cioè Ciauchi, l'onorevole Ciauchi, è fuori legge. L'onorevole Ciauchi, il povero scomparso Khaled Fouad Al-Lam. Non ho detto che i musulmani sono fuori legge, cerca di capire. No, hai detto che la religione islamica. Questo hai detto. Che la religione islamica è contro la Costituzione. Ci sono dei precetti della religione islamica che sono contro la Costituzione. Ma chi li vuole applicare qua? E che propone una riforma dell'Islam. Io sono convinto che o l'Islam si riforma, quindi si riforma radicalmente come ha fatto la Chiesa Cattolica, o non sconfiggeremo mai più il problema, ma non allora, lo dico ho capito. Brucida. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Allora, grande richiesta ancora Ferrero, mettetemi un altro pezzo, va. Massimo Ferrero, detto il Viperetta, ieri sera alla Zanzara. Dimmi una cifra, i soldi che fino adesso hai messo nella Sampdoria. Quanto hai investito? Quanto hai investito? E basta che te leggi tutte le carte, lo vedi. Ma che no? Me leggo, io che mica c'ho tempo da perdere. Appena sei entrato un quindicino. Un quindicino appena sei entrato? Sì. Ma quelli sono soldi tuoi che hai messo o no? Sono soldi dei Carroni. No, sono i tua. Ma i miei no, di certo, guarda. Non è che io ho la benzina, però mio padre mi ha insegnato che non bisogna essere ricchi, bisogna essere credibili. Sì. E io ho tanto credito. Ma questo è un concetto molto semplice. Lui dice: io i soldi materiali, fisici, non è che ce li ho. Cioè, non sono un magnate, no? Però sono credibile con le banche, evidentemente, per l'attività cioè, che fanno fa. Credito. Sostiene Ferrero, Sostiene Ferrero. E dunque, oltre ad avere messo un quindicino, come dice lui all'inizio, che poi dice un quindicino che non so, 15 euro, sono 15 milioni di euro. Un quindicino, dice lui. Poi successivamente mi fanno credito. Poi c'è stato questo duetto, sapete, hanno pubblicato delle foto di Ferrero nudo a Sabaudia, a casa, sul balcone. Dico, ma perché che orrore? Ma perché tu, nudo sei meglio, non ho capito. No, tu nudo sei meglio di Ferrero. Secondo me è meglio Ferrero. No, questo sicuro. Ma sicuro che Ferrero nudo è meglio di te. Non mi farei mai pubblicare su un giornale. Che non ti farei mica, lo decidi te. Beh, starei attento a non spogliarmi in pubblico. Ma a parte che nessuno ti pubblica le foto tue, nessuno pubblica le foto tue. Non è di alcun interesse, per fortuna, appunto. No? Ma non lascia perdere, per fortuna, non è che lo decidi tu se le cose vanno pubblicate o ma no. Ma dico, cioè, starei attento, ecco, questo. Vabbè, ma quello stava a casa sua in quel caso. Stava a casa sua, sul balcone di casa sua a Sabaudia. Il balcone, solo stava sul balcone. Ma infatti, secondo me non si potrebbe nemmeno fare. Secondo me non si potrebbe nemmeno fare, tra l'altro. Berlusconi, alla fine, ha vinto la causa con Zappato, là. Sai quella causa famosa? Sì, come ha vinto come quella causa perché non si possono fare le foto dentro la casa. Ragazzi, almeno questo lasciatecelo, no? Almeno le foto dentro casa lasciatecelo libero, o no? Non so quelle foto che hai fatto nudo, dai, su. Hai mandato i giocatori della Madonna oggi. Di Apparenzo che lasciasse perdere la foto che se sta a leccare i baffi, non la guardare più. Io negli spogliatoi li ho visti nel bagno della stazione Termini, le foto tue nudo, altro che, le hanno scritte il numero del cellulare sotto, poi per giunta stavi lì, stavi sì, stavo lì, c'era la tua foto nudo, che per appuntamenti numero c'era pure il cellulare. Ma allora che cazzo vai a fare a sti posti? Sei equivoco. Ma a me non è che non sono impazzito di niente, sono solo pazzo di Parenzo. Perché adesso mi è emozionato che Pancina di Cesca sta a vedere foto mie. Ci sono. No, ma ti spiego di più, ti dico di più. Ma nei cessi. Ti spieghi di più a me, dai! Ti dico di più, fratello mio. Nei bagni c'è il tuo numero, fratello, di telefono pure, di cellulare della stazione Termini. Ca foto? Ca foto tua! Hai visto il mio cellulare, non ti risponde, sono protetto, l'hai detto. Ma prima ti ho provato a chiamare anche dopo aver visto la foto nei bagni della stazione Termini. Ma perché sei fissato con questi bagni della stazione Termini? Te lo dico io. Ti sei innamorato? My sweet Louise, my sweet Louise, sweet sweet sweet Louise, my sweet Louise, my sweet Louise. Ciao, grazie a tutti, ciao, e viva la gnocca! Allora andiamo a pescare. Daniele, 800240024, hanno insultato e picchiato un signore, un ragazzo gay a Polignano a Mare, due giovani. Ora dico una cosa, fra poco vi faccio sentire una piccola conversazione che ho avuto con questo signore che si chiama Leo e ha credo 28 anni, se non sbaglio, sì, 28 anni. Allora, per carità, poi sicuramente il motivo sarà stata la sua gaytudine, il fatto di essere omosessuale, però questi sono semplicemente due delinquenti, due coglioni, due violenti. Se tu se beccano per strada Parenzo, due che gli stanno sulle palle, ti dice: Parenzo, che cazzo stai a fa? E tu dici: oh, ma che volete? E questi due ti picchiano. Sono dei violenti, cioè punto. Se questo gli hanno detto approcio, questo ha detto: ma che vuoi? E questi ti picchiano. Sono delinquenti lo stesso, non è che sono più delinquenti degli altri, è uguale, identica. No, è sono la stessa cosa. No, sono più delinquenti perché c'è l'aggravante del cosiddetto. Ma non c'è nessun aggravante. Odio, ma quale, quando mai? Non determinato c'è, no, da una follia, perché chiaramente. Ma non c'è nessuna, è la stessa violenza, uguale, beh, identica. No. Se picchiano Parenzo perché sono antiparenziani, il risultato è uguale, diciamo, ma il. Non vanno, secondo te vanno puniti con più, metti che uno dovesse punirli col carcere, sì, con più come andrebbero punite le parole contro l'omofobia, certo, con più anni di carcere, sono con più anni di carcere, a cui io darei, guarda, sì, sicuramente come l'omofobia, come l'insulto omofobico. Ma questi sono due coglioni, dai, benissimo, puniamoli. Daniele Pescara, sì, ma non, ma che di più, ma perché di più? Perché c'è l'aggravante, ma della se dici Ambrogio e te meno, oppure dici testa di cazzo e ti meno, è diverso. È diverso. Più, un anno in più perché dici Afrocio. È un'accusa di genere, certo. Ma tu, ma come ragioni? Io cioè, così, mi dispiace. Daniele Pescara, ma te ragioni come le persone più politicamente sì. corrette del mondo. Ma invece sarà invece è giusto quel che dici tu. Che Daniele Pescara. No, ma chi ha detto che è giusto? Scusa. Tra l'altro. Ho detto che è giusto. Tra l'altro. Ho detto che è giusto. Una complicità. Ho detto che è giusto o no? Non dire ho detto che è giusto? Ma no, ma chiaramente mettendolo sullo stesso piano è come dire che è giusto, che non c'ha nessuna relazione, quindi è ovvio. Io ho detto semplicemente che sono due delinquenti che devono andare in galera. Ma devono avere la stessa pena rispetto a uno che ti picchia per strada semplicemente omofobico. Perché sei Parenzo o sei Cruciani. Chiaro? Daniele Pescara. Ciao Giuseppe, volevo intervenire sulla faccenda di Berlusconi. Quale faccenda di Berlusconi? Quella delle oggettine, dei soldi delle oggettine, sì. Il processo adesso, la faccenda delle oggettine. Sì, dimmi. Volevo dire che questo è emblematico della totale mancanza di libertà sessuale che c'è nel nostro paese. Mm. Cioè, adesso non esageriamo, in Italia c'è grande libertà sessuale. Non è che adesso questa vicenda è il simbolo della mancanza di libertà. Lo vuoi mettere in confronto con l'Olanda? No, ma non è questo il punto. La questione è molto semplice, è il fatto che prosegue ancora la vicenda dell'oggettino e chissà quando finirà. A mio parere, avere messo sotto controllo non so quanti telefoni, avere speso non so quanti soldi per scoprire se Berlusconi scopava o no, quanto scopava o quanto alla fine abbia provato a convincere alcune a mentire e a non dire o l'età di Rubi oppure se c'è stato un rapporto sessuale, mi pare una follia. Però qualcuno dice c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, anzi sicuramente va benissimo, facciamo questi processi, che vi devo dire? L'obbligatorietà dell'azione penale c'è, ma le motivazioni che portano un processo andrebbero vagliate diversamente. Va bene, grazie. Francesco da Roma, vai. Da Roma, vai. Pronto? Dimmi Francesco, dimmi. Ecco, ma no, volevo intervenire rispetto alla questione delle moschee. Anche sul fatto di questo ragazzo che hanno picchiato, che si uniscono le due cose. In che senso, scusa, come si uniscono le moschee? Perché nelle discussioni che fate io mi sento molto a disagio, perché non c'è mai un limite per giudicare queste, c'è un tifo d'assadio rispetto alle questioni, no? Allora, bisogna capire qual è il limite di propaganda della religione musulmana. Se devo chiudere prima la moschea, lo decido in base a quello che tu stai diffondendo. Qual è il limite per la religione? Cioè, se c'è una coercizione, se mi costringe a vestire in un certo modo, non lo puoi fare, deve essere impedito. Se un gay non può andare in giro perché non può manifestare la sua condizione, va impedito. Allora, è inutile fare tifo da stadio, perché io mi sono stufato di sentire queste discussioni. No, però Francesco, ti assicuro che io no. Allora, bisogna capire qual è il limite. Ci sono delle proposte di legge sulla... Non ho capito niente, Francesco, mi fai capire che non capisco però. Non capisco il tuo intervento, veramente. Allora, dove vuoi arrivare? Perché tu stavi dicendo, Cruciani, prima che chi mena qualcuno va giudicato per quello che fa. No, c'è un aggravante, sono d'accordo con Parenzo, certe volte Parenzo mi fa... Vabbè, sei d'accordo con Parenzo che se uno sulle posizioni così dirette, cioè quei ragazzi, quei due ragazzi, aspetta, stai zitto un attimo allora, perché sennò altrimenti facciamo confusione, la gente non capisce. Secondo te quei due ragazzi che a Polignano a Mare hanno picchiato quel 28enne sembra perché poi non è sicuro, sembra perché gay, no? Insultandolo, eccetera, eccetera, devono ricevere una pena più pesante rispetto al fatto che incrociano Parenzo per strada e lo picchiano. Questo è di etica. Se tu elabori dei concetti per cui vai contro le persone, ma per una sua normale principio, non è un principio sano. Esatto. Una religione, qual è una religione? Allora, bisogna capire se si introducono cose del genere, non c'è più limite. Non c'è più limite a nulla. Ma è che una limite di dire non dire c'è quello più che limite? Gli ma chi ha detto tu che dice quello che gli pare? Storia che uno può dire quello che gli ma pare. Chi ha detto che così? Ma cosa c'entra? Non è così. Non è che cosa c'entra? Ma chi ha detto questo? Non funziona così. Allora, io la domanda civili, non è così, non so dove tu viva, nella giungla forse, ma non funziona così. Siamo eh? Al delirio. Ma non è delirio, il delirio è il tuo, che non riconosci che se uno ti insulta per la religione o per la tua tendenza. Ma tu puoi insultare, puoi portare in puoi portare in insultare proprio nessuno. Puoi portare in tribunale chi vuoi. E c'è un aggravante se in più ti picchio perché sei gay, ma è talmente civile come principio. Cristina da Genova. Discusso. Cristina da Genova, tanto non capite per cui. Ah, noi non capiamo. Assolutamente no. Noi non capiamo. Assolutamente no. Per fortuna invece la legge dice così. No, la legge purtroppo per fortuna ancora non lo dice. Che dirà cose per diverse, fortuna ancora non lo dice. Cristina, dai. E continuate a fare propaganda anti-omosessuale, allora. Poi io faccio propaganda anti-omosessuale. Continuate, no, continuate quelli, chi? Non osare di non permetterti di dire cazzate del genere. Io non faccio, chi continuate chi? Questa roba e agli altri di questa roba. Roba incredibile, Cristina, certamente, dai. Ma roba incredibile è un cazzo. Finalmente. Oh, c'è un limite alle ciao, cose. Luciano, ciao Parenzo. A Genova c'è Piazzale Parenzo che non so chi sia. Vai Cristina, poi vai, non abbiamo tempo da perdere, dai, forza. Senti, allora io ho l'intenzione, avrei voluto intervenire su Berlusconi, che si dicono tante cazzate, sono state ormai scontate, perché sono trite e ritrite, no? Cioè se li vede lui i suoi affari, con la legge, con i suoi mezzi, ecco. Vabbè Cristina, però mi sembri un po' strafatta in testa, che c'hai? Mi sembri un po'... No, sono un grandissimo caldo. Ah, hai caldo, sì, perché mi sembravi un po' con la voce un po', no? No, la mia voce. E la tua voce, allora? Allora quello che intendevo, che volevo toccare io invece, un argomento che non avete mai toccato. E quale sarebbe l'argomento che non abbiamo mai toccato? Io vivo nell'entroterra Ligure, no? Sì, però adesso capisci, sono le 19.47 e siccome tu parli lentamente, non abbiamo... Allora, se mi fai parlare... Ma parla, esprimiti, non possiamo stare... Allora, vivo nell'entroterra Ligure, il problema è l'anziano, io lavoro con gli anziani. E allora? E a parte che sono di Pavia di origine, e non ci sono strutture, non ci sono... Cristina, sto per abbandonarti, sto per abbandonarti. Te lo dico, sto per abbandonarti. Siccome hai la voce che sembri strafatta, di hashish. Ma non posso sentire te che sei originario di Pavia e stai con gli anziani, perché che cazzo me ne frega? Ma insomma, tu non fai parlare la gente, cioè voglio dire. Ma hai la voce, ti sei fatta quattro canne, è evidente. Cioè, sei completamente su di giri. Cioè, su di giri. Sei almeno così. Brava, roba incredibile. Almeno, ciao Cristina, non c'ho tempo da perdere, dai. Sei strafatta totalmente. Ciao. Non mi sono fatta nessuna canna. Sei strafatta, dai. Diciamo la verità, sei un po' strafatta. Va bene, va benissimo, però non è che noi possiamo adesso alle 19.48, ripeto, è passato già un altro minuto, possiamo continuare a sentire sono originaria di Pavia, assisto agli anziani, eccetera, perché arriviamo a una conclusione rapida e indolore. Quanto vogliono, no? Per carità, niente da togliere a nessun problema. Noiava. Di che sta parlando? Anziano, purtroppo io vedo molte volte, vado anche a fare volontariato, li vedo soli e intervengo nelle loro questa è strafatta. Il problema è che ti accusano subito di voler sottrarre qualcosa a quell'anziano, ma no, magari ha un figlio che viene una volta alla settimana, tiene tutti conti lui, non è vero quello che sta parlando? Dice, no? Forse scusi signora, aspetta. Io volontariato, ho fatto l'assistenza geriatrica per tutta la vita. Sì. Sì. Continuerò a fare la mia opera di volontariato. Sì, va bene, benissimo. Però tu hai... Cristina, hai sbagliato numero secondo te, secondo me. Cioè, tu volevi chiamare forse... no, chi voleva chiamare Parenzo? Il centro assistenza anziani? Il centro assistenza, l'ASL, il Ministero delle politiche sociali o forse qualche funzionario del comune? Ragazzi, noi abbiamo anche questa funzione. Quante canne ti sei fatta, Cristina? Ma niente, almeno te lo giuro, guarda, avessi qui un po' di foglie, non ti preoccupare che le utilizzerei. Te le sei fatte? No, niente, assolutamente, sono stanca, c'è caldo. C'è caldo. Perché? T'ha dato la testa e il caldo. Ciao. Leggo qui sui giornali, Parenzo, un signore che si chiama Davide Piccardo, ed è il coordinatore delle associazioni islamiche di Milano e Monza Brianza, sostiene che se non vengono costruite moschee, leggo qui, se non vengono costruite moschee, gli islamici di Milano, di Monza, della Brianza, subito moschee o invadiamo le strade? Giusto, hanno perfettamente ragione. Cioè bisogna, secondo me, io sarò al loro fianco, pur essendo io di religione ebraica, sì, e per la libertà di culto, e pur essendo, sì, io molto laico, sarò al loro fianco. Cioè quante moschee bisognerebbe fare secondo te a Milano? Non è quante, tante, intanto tante, Viale tante. Jenner andava fatta una moschea immediatamente, perché la gente non deve pregare tante per moschee, strada. Tante i moschee. Leghisti che hanno governato la città di Milano per anni, sì, e hanno costruito su Viale Jenner una propaganda, sì, vergognosa, sì, dicendo pregano per strada, che schifo, che schifo, costruitegli una moschea. Certo che fa schifo, anche a loro fa schifo pregare, sì, per strada, perché è inumano. No, non dire sì così, Piccardo, perché questo è il problema, è la Piccardo questione. Altro che, hanno ragione, invadete le strade, pregate davanti al Duomo, davanti al Duomo andate a pregare, io vengo con voi, davanti al Duomo andate. Piccardo, Piccardo, buonasera, buonasera, come stai? Ha ragione. Bene, tutto bene, grazie. Ma è vero che volete invadere le strade se non vengono costruite le moschee? Beh, vi è piaciuto il titolo di Libero, diciamo che ha estremizzato un po' la situazione, però è una conseguenza logica. Cioè non ho capito, se non fanno moschee, se non costruiscono moschee, allora, se non ci sono, già allora, pregano per strada. Se non si costruiscono moschee e i posti dove preghiamo, che sono, sì, le sedi delle nostre associazioni, vengono perseguite con ordinanze di chiusura puntualmente in tutti i comuni, ovviamente poi noi dove preghiamo è una conseguenza, sì, logica, e dovremmo pregare per strada. Già, cioè, pregano per strada. Scusami, Milano, un attimo, già ma pregano per cui per l'idea di alcuni leghisti, della Sant'Anchè, eccetera, eccetera, di chiudere le moschee, come rispondete a questa roba? Ma noi prima bisognerebbe aprirle le moschee. Questo no, è quelle che ci sono, dai. È su. Paradosso. Quante ci moschee sono, ci vogliono secondo te a Milano? Così, allora, facciamo un in numero. Lombardia, in Lombardia ci sono 420.000 musulmani. No, ma a Milano quante moschee ci vorrebbero a Milano secondo te? Ce ne sono 100.000, servirebbero almeno una decina di moschee di media dimensione. 10 moschee a Milano. Vabbè, ci sono 200 chiese, scusa, ci sono 100.000 musulmani, come centriamo? Vabbè, ragazzi, non possiamo fare 10 moschee a Milano, dai, Davide. 10 moschee a Milano, ma te, dai, cosa su. Ma te, che ma te è esagerato, 10 moschee ma a Milano. Ma è esagerato, a te che ti siamo frega? 100.000. Vabbè, ma ho capito, ma non si può un po' diventare la Mecca a Milano, abbi pazienza. Cioè. Mamma mia, la Mecca! Cioè, se non mi rompo i coglioni con sta cosa lì. La Mecca, ecco il sto facendo una domanda a Piccardo, stai tranquillo e calmo. La Mecca. Diventare la Mecca Milano con le cose, con le mezzaluna sopra, no? Con la mezzaluna sopra, con la bandiera dell'Islam. Scusa, ma dai. A Parigi ce ne sono 100 di moschee, non è che sono più scemi di noi, voglio dire. Ho capito, 10 moschee, bisogna fare 10 moschee a Milano, sarebbe come minimo. Oggi ci sono un sacco di posti dove si va a pregare, però non sono riconosciuti in quanto tale. Noi vogliamo dei posti trasparenti, a luce del sole, ufficiali, dove tutti possano entrare, che abbiano delle regole chiare. Questo è quello che chiediamo. I leghisti non lo vogliono. È decorato e compagni. Ma Salvini come lo giudichi? Ma Salvini è un populista, ma proprio becero, nel senso che lui fa propaganda. Lui, io ho le sue foto in moschea parecchi anni fa, quando era giovane, è venuto a chiedere i voti, a fare campagna elettorale. Come a chiedere i voti? Veniva a chiedere i voti a voi in moschea? Certo, è certo. Avete le foto di quando lui venne in moschea a chiedere i voti a voi? Ce le ho. Davide Piccardo, Salvini ci chiedeva i voti. Quanti anni fa, scusa, Picca? Guarda, era molto giovane, stiamo parlando negli anni 90, adesso non ricordo esattamente, però posso verificare. Cioè bisognerebbe trasformare Milano nella capitale europea dell'Islam, dici tu, sarebbe il caso No, in Germania ci sono 170 moschee in costruzione in questo momento, cioè la Merkel non è che... Ma esiste il terrorismo in Italia secondo te? Beh, questo lo sapete... No, secondo te, tu se esiste lo sapete anche voi, nel senso attentati non ne ho ancora visti, sono un cittadino come voi. Sì. Se ci sono alcuni fanatici invasati sicuramente bisogna... Ma ci sono o no, secondo te, oppure è tutta fuffa? Qualcuno c'è, però come dire, il fenomeno è ampiamente sovradimensionato. Poi credo che i nostri servizi e apparati di sicurezza siano molto efficienti. Cioè in Italia non c'è pericolo terrorismo, dici? Ah, il pericolo ci può essere ovunque, però credo che gli apparati di sicurezza fino ad ora... È più pericolosa la mafia, la corruzione, la camorra. Quello mi sembra un dato di fatto, nel senso che... Cioè ci siamo preoccupati diciamo di quattro espulsi ogni tanto, eccetera, ma in realtà i problemi veri sono la mafia, la camorra, la corruzione, o no? Ma credo che ogni cittadino che vive la sua vita e si confronta con le cose reali possa affermarlo con certezza, nel senso nessuno di noi ha mai avuto una brutta esperienza con un fondamentalista islamico, però invece di mafia si muore, di tumore si muore, di corruzione anche si per muore. Per cui chi dice come la Santa Chè chiudere le moschee, tu dici allora bisognerebbe chiudere le chiese per chiudere la Santa Chè, altro che... bisognerebbe chiudere i bar, i ristoranti, gli stadi, tutti i luoghi di aggregazione. Perché? Perché da lì transitano criminali tutti i giorni, però è un ragionamento folle, nel senso che noi abbiamo... E Buonanno come lo giudici? Uno Buonanno, tanto vedi in televisione. Mi devi far parlare di Buonanno. Dai, dammi un giudizio su Buonanno, Davide. Cosa devo dire di Buonanno? Che ne so, uno del circo Barnum, coglione, una testa di cazzo, che ne so. Io sono a digiuno, capito? Io adesso sono nel mese di Ramadan. Allora... Alle 9:15 non posso né mangiare né bere, neanche parlare male della gente, se possibile. Che c'è? Ho capito un'altra cosa, che no, sono a digiuno, dunque non posso vomitare, non posso nemmeno vomitare. Avevo capito questo. No, in effetti non potrei neanche vomitare, però... È una cosa seria, nel senso, noi viviamo questi 30 giorni di digiuno e preghiera. Il Ramadan. Fermo un attimo che c'è la pubblicità, poi torno, ti voglio chiedere due o tre cosine. Ciao, grazie a tutti, ciao. E viva la gnocca! La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Ancora a casa, Davide Piccardo, coordinatore Associazioni Islamiche di Milano e Monza Brianza, così ad aggiungere, sostiene che bisogna costruire 10 moschee a Milano. Ora voglio chiedere subito a Piccardo una cosa: sta facendo il Ramadan, ci sono però dei precetti della religione islamica, caro Piccardo, che sono chiaramente in contraddizione con l'Occidente. Questo è evidente il ruolo della donna, ne vogliamo parlare. Scusa, secondo te, Piccardo, la donna nuda è compatibile con l'Islam? Cioè, una donna nuda, te che effetto ti fa? Dimmi la verità. In camera da letto è compatibilissimo. E fuori? Fuori. Cioè, le pubblicità con le donne un po', no? Con le donne. Ma io credo che dovremmo renderci conto che è in atto una mercificazione del corpo femminile che non fa bene a nessuno, in primis alla donna e ai suoi diritti. Cioè, ci vorrebbe meno donne nude in giro, dici? Meno donne nude nelle pubblicità, in televisione, eccetera. Ma secondo me sminuisce la donna in sé, proprio la donna non questo è... Questo lo dice anche la Boldrini, Ma forse per ragioni diverse, ma comunque possiamo anche convenire. Lo dice anche il Papa, probabilmente. Esatto. Cioè, ma ragazzi, e nessuno dice di chiudere il Vaticano. Ho capito, per questo, ma no? L'Islam... Nell'Islam le donne hanno un ruolo chiudere. Di sottomissione, sono sottomesse. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ah, non è così. Ma che dici, una follia? Io ti invito a venire quando vuoi, conoscere le musulmane che lavorano, che fanno. Che... Va bene, allora. In Arabia Saudita, allora, in molti paesi il ruolo della donna è un ruolo fantastico. L'Islam, esattamente come in Occidente, guarda, sono libere come in Occidente. Il paese con la religione, sono libere come. Io parlo dell'applicazione, poi concreta nei paesi. Ma il paese è una cosa, la religione è un'altra, no? Sì, ma parliamo di quello che succede nel concreto. Bisogna semplificare in modo così. Sono paesi come l'Arabia Saudita assolutamente retrogradi. Sì. Però comunque ha detto una cosa interessante: le donne nude non vanno bene. Io invece dico come che le donne grazie nude vanno. Infatti io ho detto che sempre ci sono dei punti in comune. Sempre religione. Non assolutizziamo, dipende dal contesto. Non ho detto che non vanno bene. Beh, hai detto meglio, meno donne nude. La donna è la cosa più bella che Dio ha creato. Quindi voglio dire, non è che. Ma anch'io dico l'adulterio? L'adulterio, tutte le religioni monoteistiche inquadrano il rapporto sessuale. Secondo lei è giusto punire l'adulterio o no? Ma allora io sono contrario a qualsiasi forma di punizione. No, condannare quei paesi arabi che hanno ancora l'adulterio come reato, fanno bene o fanno male? Ma io sono per la laicità, per lo Stato laico, nel senso che lo Stato non deve entrare nei comportamenti individuali delle persone, però ovviamente c'è delle prescrizioni religiose, però non sempre devono coincidere con le norme umane. Io credo che lo Stato debba, voglio dire, regolare i rapporti tra le persone, garantire i diritti a tutti e quindi intervenire quando qualcosa lede il diritto di un altro. Ma l'Arabia Saudita è uno Stato criminale, possiamo dirlo, che da questo punto di vista. L'Arabia Saudita è uno stato di profonda ingiustizia sotto diversi. Non è che c'è solo l'Arabia Saudita. I gay in molti paesi sono condannati, sono puniti severamente. Rientra nello stesso discorso. Cioè, tu come li consideri i gay? Come persone, come li devo considerare? E il matrimonio omosessuale, sei d'accordo? No, non sono d'accordo. Sono d'accordo per il riconoscimento dei diritti. Ma non sei d'accordo col matrimonio? Anche per le unioni civili. Però il discorso del matrimonio è più, come dire, filosofico. Più aperto di Giovanardi, peraltro. Ma io non sto dicendo niente. sto facendo delle domande. No, le unioni civili senza dubbio sì, perché se, i cittadini italiani devono avere poter usufruire delle stesse condizioni, però il matrimonio riguarda un po' una concezione che ha a che fare con una tradizione diversa, significa un po' disconoscere tutto quello che è. Ma tu sei se hai una moglie? Io sì. È col velo, va in giro col velo? No. Senza velo? Sì. Il velo come lo consideri? Il velo lo considero una prescrizione islamica da rispettare. Da rispettare. Ma il velo non è il chador, è diverso. Cioè il velo è quello che lascia scoperto l'ovale del viso, perché poi voglio dire, rientra nella libertà. Ci sono due livelli. Uno è il rapporto con il proprio creatore a cui uno dovrà rendere conto, e uno sono le leggi umane. Noi non dobbiamo sanzionare i comportamenti privati, questo non spetta a noi. A noi spetta, come dire, promuovere una determinata visione della società. Il problema è che ci si concentri sempre su questi aspetti, come dire, esteriori dell'Islam. Beh, esteriori, insomma, esteriori. L'Islam non so se hai visto quelle che si sono convertite, gli italiani che sono andate poi. Ma sono andate o volevano andare? No, che sono andate poi in Siria, nell'ISIS, eccetera, eccetera. Vabbè, tanto vanno là, meglio che non fanno danni qua. Vabbè, ciao Davide, ciao, a presto, ciao. Buona giornata. Credo che una figa deve essere fatta, cioè tecnicamente parlando, non so per cosa la vedi una figa sulla testa. Allora andiamo ad Avellino, Carmine, vai. Buonasera, Cruzzani, buonasera Parenzo. Chiamo in merito al presunto violentatore della quindicenne di Roma, e quindi sono stato mosso un po' da irruenza e da un'utopia, cioè io vorrei avere la certezza delle pene, questa è la cosa che mi fa male, perché ecco, a un soggetto del genere io proporrei la castrazione chimica, se è stato lui, se viene incastrato, castrazione chimica, puoi continuare a fare la tua vita come vuoi, braccialetto che segnali ogni suo movimento, e poi lavori, guadagni, devi risarcire i danni alla poverina, perché tu hai distrutto la vita di una quindicenne, nonché della sua famiglia. E io credo che di fronte a queste cose ormai, io ho 44 anni, una bimba di 2 anni, ne ho le palle piene, perché non è possibile che ognuno di noi può esprimere la propria libertà, i propri sentimenti, i propri attimi di follia e non pagare come si dovrebbe pagare. E come dovrebbe pagare, scusa? E le ripeto, castrazione chimica, braccialetto a vita perché voglio sapere ogni tuo movimento, e guadagni 1.000 euro, 800 euro dalla signorina che hai rovinato, perché tu hai rovinato una ragazza di 15 anni. Nel fiore della sua gioventù, in tutto quello che vogliamo dire. Vabbè, ma come dovrebbe pagare? Castrazione chimica così obbligatoria, diciamo, no? Obbligatoria, sì, ma non adesso, ecco, domani mattina lo prende. Cioè, facciamole ste cazzo di leggi con un minimo di criterio, perché ormai. Beh, stai proponendo la castrazione chimica, non è che stai proponendo proprio una cosa leggera. Comunque, castrazione chimica obbligatoria e poi. Castrazione braccialetto, perché visto che lo mettono agli animali in via di estinzione, perché non lo possono mettere a questi soggetti che magari, ecco, in un attimo di follia fa delle cose così. Scusate, dunque tu castrazione chimica più braccialetto. Braccialetto e risarcimento a vita fino a quando campi, perché io sono di Avellino, quindi ogni tanto mi passa. Risarcimento a vita che vuol dire? Risarcimento a vita. Un vitalizio, bravo, visto che lo diamo ai nostri politici, lo diamo pure a persone che subiscono dei torti così, secondo me, ecco, mostruosi, perché poi una ragazzina di 15 anni subire una ragazzina, un ragazzo, una donna, cioè vorrei, ecco, quest'utopia bene severe, però che vengano applicate, perché onestamente. Ma qualcuno ha chiesto la chiusura di tutte le caserme adesso che c'è stata questa vicenda? Non credo, no? Invece non se credo, fosse stato credo, un rombo, a me è altro, venuta voglia, chiesto la chiusura di stronzate. No. Ci sarebbe stato più casino, sicuramente. Ci sarebbe stato più casino, ecco, quello non c'è il dubbio. Il mio è chiaramente un paradosso. Ci sarebbe stato più casino, sicuro. Ecco, quindi avrebbero chiesto la chiusura di tutti i campi rom immediatamente. Ora nessuno si questo senso di impotenza, perché cioè a 44 anni ne sì, però se lei vuole fare la castrazione chimica nei confronti di questo tizio, più il braccialetto e più il risarcimento, è meglio che uno si suicida. No, ma io va bene pure il suicidio, e va bene, allora è meglio la pena di morte a quel punto. Cioè una castrazione chimica, braccialetto non so per quanto tempo, risarcimento a vita, ma uno che campa a farlo. Le dico la verità, io mi sento libero. Allora è meglio la pena di morte, allora proponi direttamente la pena di morte, forse è meglio anche per quella persona. Cioè, allora non ti nascondo. Nei confronti di quel tizio che ha stuprato la sedicenne, pena di morte. Mentre aspettavi lì, è venuto fuori un po' quello che è il mio disagio, ecco, di 44enne che partecipa alla vita politica, vai a votare, a pinga, a palla. Poi ti ritrovi sempre con le stesse cose, cioè ti ritrovi di fronte a questo fenomeno, perché poi è l'umanità che deve avere il suo corso, però l'impotenza che ognuno di noi è libero, grazie a Dio siamo liberi di esprimere come siamo, allora, come vogliamo. Però quando uno sbaglia lo deve sapere, deve pagare. Questo è il problema dell'Italia, che poi alla fine non si paga mai abbastanza. Fermi tutti, pubblicità, disagio, fermo. Questo è il mio disagio, cioè vorrei capire, ecco. Ho capito. Siamo ad alti livelli qua, La Zanzara. Tu hai una malattia, tu fai una domanda e poi parli sopra a quello che dovrebbe dare la risposta. Non è che conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico. Matteo da Monza, vai Matteo. Rispondere a quel signore delle 10 moschee che vuole a Milano, no? Sì, però togli l'auricolare o togli il viva voce, dai. Ma non posso, sono in macchina. Ho capito, amico mio, però non è che possiamo fare i collegamenti col viva voce o con l'auricolare, altrimenti non si capisce una mazza. Comunque, dai. Non si può fare col viva voce, devi togliere per un secondo, mettiti il telefono sulla bocca, dai. Dai, Matteo, ma non possiamo essere all'ABC dei collegamenti, su, dai. Adesso. Dai, forza. Luciani, dimmi. Allora, volevo rispondergli. Se loro vogliono farsi le loro moschee, sì, tirano fuori i soldi loro, come fanno le comunità religiose, come se un prete vuol tirar su una chiesa, una parrocchia, raccoglie i soldi con i fedeli, con la comunità, comprano il terreno e mettono su una chiesa. Chi gli deve dare i soldi a questi qui per costruire le moschee? Tra di loro raccolgono i soldi, comprano i terreni, chiedono l'autorizzazione e si mettono sulle loro moschee dove vogliono e quando vogliono, ma con i loro soldi. Con i loro soldi, su questo non c'è dubbio. Ma qua sembra che qui la diocesi di Milano o il Vaticano gli deve costruire le moschee a loro, pretendono questo loro. Comprano i terreni, raccolgono i soldi e si fanno le moschee come piace a loro e come vogliono loro. No, ci sono alcuni amministratori che non le vorrebbero nemmeno le moschee, al di là della questione dei soldi. No, io per me le moschee le possono anche fare, ma li facessero con i loro soldi, con le già così loro. Se li fanno loro. E infatti è già così. È già così. Sì. Bene, non lo sapevo. Allora per me possono anche farsele le moschee. Giuliano da Firenze. Giuliano da Firenze, vai. Costruiscono. Sì. Allora, io volevo ribadire sul fatto delle moschee a Milano, no? Sì. A prescindere che ormai ci hanno invaso in un modo talmente aggressivo che ormai sono padroni di casa nostra loro. Ed è un dato di fatto, perché camminare di sera a Milano dopo le 10 di sera è diventata una cosa vergognosa, a prescindere da questo. Io sono ferocemente contro l'immigrazione, diciamo, clandestina, e secondo me dovrebbe essere repressa molto più duramente. Però io questa invasione in realtà non è provata dai numeri, cioè i numeri non provano l'invasione che dici tu. Poi magari la percezione andando in alcune zone può essere quella della, in alcune zone sicuramente c'è una invasione tra virgolette, però i numeri ti dicono che non c'è un'invasione di musulmani in Italia, ce ne sono magari sicuramente di più rispetto a qualche anno fa, ma non c'è l'invasione. Poi uno può mente tanto per creare dei problemi a noi italiani, perché secondo me adesso il pensiero di andare a fare delle mecche a Milano senza magari pensare di costruire delle case popolari con i poveri cristi italiani. Sì, ma sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Non è che le case popolari sono in contraddizione con le moschee. Certo, però, se uno deve scegliere, se ci fossero soldi pubblici in mezzo, uno si incazza, ma non è questo il punto, No, quello che io spero è che non ci siano soldi pubblici in mezzo, perché so di fatto che gli soldi li mettono tutti loro, si aiutano molto tra di loro per creare queste cose qui. cosa che non facciamo noi italiani. Però a prescindere da questo, io penso che dobbiamo dare un limite, perché io mi ricordo di aver fatto l'ultimo viaggio in Tunisia, per entrare in un posto, a mia moglie le ha fatto togliere il crocefisso dal collo, cioè ha detto no, dentro qui non puoi entrare con questa catenina, e gliel'ha fatto togliere. Cioè, io non riesco a capire, arrivano dove, loro qua e sono i padroni di casa nostra, a Davanetto. Giuliano, dov'è che gliel'hanno fatto togliere? Non ho capito cosa è successo. Dov'è che gliel'hanno fatto? Certo, se ti distrai. Non sono distratto, Benito, non ho capito dove è successo che hanno imposto di togliere il crocifisso. Dove fisicamente? Ad Mahomet, nella moschea vecchia di Mahomet. Siamo andati dentro a vederla perché. Vabbè, ma certo, ma scusi, ma quello è giusto. Ma è come dire che uno entra in chiesa. Non è giusto. Se tu vai in chiesa, c'è una regola, ti togli il cappello. Scusa, vai in chiesa, puoi fare quello che ti pare, nessuno dice niente. No, caro. Ma quando in tutte le chiese puoi fare quello che vuoi. Ti devi togliere il cappello. Puoi andare pure con una mezzaluna tatuata sul petto, ti sto dicendo niente. Un'altra cosa, è una questione di rispetto. Quando tu vai in chiesa ti togli il cappello, catena, vai nella moschea ti togli le scarpe, vai in una sinagoga ti metti la kippah, se no non entri. Ma non è razzismo, è la regola di quel posto. Siccome non fa male a nessuno, nessuno ti obbliga di andare in una sinagoga e di non metterti la kippah. Comunque, ma io sono cruciale, vado senza la kippah e non entri, amico mio. Uno potrebbe ti fa male dire metti la kippah, comunque, non entri. Comunque non è che se tu vai in chiesa, ripeto, con una catena o con una mezzaluna te la fanno togliere. Giuliano sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo che hanno fatto togliere. Che cos'è che è successo, Giuliano? Vabbè, è normale, questo è si sa. Mio. Vabbè. Cos'è che è successo? Non è normale. Non è allora, normale. Hai deciso normale tu qual è la non regola è. Di una. No, vabbè. Ci vuole tolleranza reciproca. Ci vuole ma cosa vuol dire tolleranza? Se tu vai in una chiesa ti togli il cappello. Giuliano, cosa è successo? Dai, non dire stronzate, non è la stessa cosa. Che è successo? Dai. Studia un po' di queste cose di Islam, sì, di che Roma. Successo? Non sai un cazzo di questa sì, roba. Sai tutto tu invece. Giuliano, vai. Che è successo? Non accetto questo tipo di discorso qua. Cioè no, io ma che è successo? Mi devo adattare e loro quando vengono al mio non si devono adattare. No, cioè, ma che è successo io concretamente? Io da loro, sul polso o sul braccio ci ho tatuato la faccia di Gesù Cristo, no, non mi fanno manco scendere dalla nave di crociera. Cioè, scusa, che discorsi sono? Ma chi ha detto che faccio dalla beh, nave? Beh, questo non è giusto, è questo è giusto. Traffico, è traffico. Traffico, il traffico è il problema. La Zanzara. Ma il problema era che non pensavi. È da tempo che non pensi più, da quando sei stato abbandonato dalle tue cellule cerebrali. Questo è il problema. Allora, secondo i giudici, Berlusconi avrebbe pagato un sacco di femmine, un sacco di donne, 7 milioni a rubi e altri soldi ad altre ragazze per stare zitte, per non dire la verità durante i processi che ci sono stati sulla vicenda Rubi Ruba Cuori, eccetera, eccetera, eccetera, le serate ad Arcore, le presunte scopate di Berlusconi, il sesso, eccetera, eccetera. Una di queste persone è una nostra amica, la signora Cipriani, no? La tettona, la tettuta Cipriani. Sentiamola un po', va, la vogliamo chiamare per capire. Berlusconi avrebbe dato circa 100.000 euro, poco più di 100.000 euro, secondo quello che riportano oggi i giornali, e in più anche, credo, una quindicina, 15.000 euro per un intervento a San Raffaele, no? Hai letto, Parenzo, no? Pronto? Francesca? Con chi parlo? Sono Cruciani, ciao. Ciao carissimo, come stai? Bene, tu senti, ma che sono queste notizie che ho visto uscire su 105,2 mila euro? Sono, non lo so, ti dico la verità, ho già chiamato l'avvocato, infatti, non lo so, non ci tre mai avute. Cioè, ma non è vero che Berlusconi ti ha dato questi soldi? No, 105 mila euro? No, assolutamente, no. Non so cosa, forse i contanti che mi aveva dato mio padre, quelli lì per la casa, hanno contato quelli. E com'è che scrivono queste cose i magistrati? Non lo so, infatti me lo chiedo anch'io, vedremo, andremo a fondo, vedremo dove l'hanno presa questa cifra. Dicono anche 15 mila euro per San Raffaele? No. Guarda, adesso vedrà l'avvocato, infatti. Già fa caldo, sto in giro per l'Italia, vedrà un attimo l'avvocato di risolvere questa cosa. Cioè, Berlusconi non tappa. Posso prendermi rabbia ogni settimana che si svegliano la mattina, iniziano a sparare numeri all'otto e le cose, quindi Per cui, niente, non, nemmeno 15.000 euro per San Raffaele, no, là, per no, un intervento. No, no, il fatto del San Raffaele è un altro discorso, ovviamente. Cioè, 15.000 euro per San Raffaele te l'ha pagati qualcuno, Berlusconi, per un intervento a San Raffaele? No, che... io non ho fatto nessun intervento, dovevo mettere una cosa ai denti, ho chiesto un consiglio di farlo in un centro buono, e l'ho fatto lì, ma nessuno mi ha dato i soldi in mano per prendere, le, insomma, non è quello che stanno dicendo. Non, beh, ma chi te l'ha pagato, però? E chi ha pagato? Il San Raffaele, il suo, di ospedale, me l'ha fatto fare lì, ho messo solo un piccolo apparecchio di, era 4.000 euro mi sembra, quindi non è che ho fatto spese di 15.000 euro. Ah. E non hai pagato tu? Non hai pagato, non hai pagato tu comunque? No, io devo ancora finire la cura dei denti, ancora non ho finito, sono ancora in cura a mettere gli apparecchi. Cioè comunque tu non sei stata pagata per stare zitta, diciamo, che questa è la tesi che esce fuori dai giornali. Ma stiamo scherzando, dai, ma basta con questa pagliacciata, per favore, dai, basta, veramente. Cioè, veramente, ci sono cose veramente gravi che stanno succedendo, guarda, veramente. Guarda, ti posso leggere una cosa che è uscita, cioè, secondo te lui mi paga per cosa? Per star zitta? Ma dove? Questi sono pazzi, sono fuori di testa. Guarda, dimmi, c'è scritto qua, anche se i PM a Francesca Cipriani accollano persino 15.000 euro di spese mediche presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Vabbè, faglielo scrivere, cosa vuoi che ti dica, purtroppo. E 108.000, invece il Fatto Quotidiano dice 105.200. Sì, io penso che questi qui me li gioco, secondo me vinco super nell'otto, giocateli all'otto, giocateli all'otto, dai. Secondo me sì, guarda, io ci rido, perché sinceramente prendermi rabbia, siccome è diventata una buffonata a livello proprio, quindi ci inizio a ridere, insomma, penso alle cose più serie che ho da pensare, sinceramente, non a queste cose qua. Vabbè, ciao cara, ciao, un abbraccio, ciao, ciao, un abbraccio, ciao, ciao cara, ciao. Andrea Milano, vai! Andrea, vai, dimmi. Allora, secondo me il problema non è non aprire le moschee, ma chiudere le frontiere. Per in che senso? Frontiere, scusa, che significa? Cosa significa? Per chiudere le frontiere. Chiudere le frontiere così, a chi? No, agli immigrati. Bisogna fermare il flusso sul Mediterraneo. Ma quello è scontato, fermare il flusso. Per farlo? Per farlo è molto semplice. Bisogna andare noi a prendere... istituire una linea di traghetti dalla Libia all'Italia, in un modo che lì si faccia il controllo. Chi ha i requisiti per venire si presenta lì in porta alla Libia, fa vedere i documenti, dimostra il suo stato di rifugiato politico e noi li portiamo in Italia. Ah, okay. E li accudiamo, sì, e li aiutiamo. Vabbè, però, Andrea vuole dire in sostanza che dovremmo non farli arrivare qui, ma in un posto X... vagliare se uno ha i requisiti per essere rifugiato politico, profugo, eccetera, eccetera. Beh, esattamente. Poi... sì, noi così questo, però, possiamo controllare un po'. È facile dirlo, venire. Un po' più complicato realizzarlo. Ma sono 5 anni che sostengo questa idea. Secondo me, vabbè, con l'Europa, l'ONU, ci sono tutti i mezzi diplomatici per poterlo fare o per poterlo imporre a un certo punto. Vabbè, Andrea, perché poi noi dobbiamo considerare il fatto che questa è un'invasione. Una volta costruito questa autostrada legale con la quale possiamo portarli, fermiamo poi tutti i barconi, li appoggiamo, facciamo come fa veramente l'Australia. Va bene, Andrea. Tino Verona, vai. Tino, dimmi. Sì, ciao. No, volevo chiedere, a parte, diciamo, questi immigrati poveracci che non è contro loro perché arrivano in Italia. Però viva Renzi, perché è un coglione quello lì. Aspetta, che non sento bene, però, Tino, scusa, non sento bene. Sì. Allora, dai, dimmi. Perché devo dire a Renzi che è un coglione. È un coglione Renzi, sì, perché? Esatto, perché quando arrivano questi immigrati, noi siamo in comunità europea di 28 paesi, o 27 quelli che sono, sì, giusto? Sì. Allora, io prenderei, quando arrivano, ne arrivano 3.000, ne prendo i pullman o il treno e gliene mando ognuno in Germania, in Francia, e li distribuiamo alla comunità europea, dov'è? Sì, ma questo bisognerebbe fare. Infatti, a un certo punto qualcuno era tentato di dire: no, diamo un. Se li devono prendere in carico loro, non diamo i soldi, diamo qualcosa. Diamo il permesso di soggiorno a tutti quelli che arrivano, in modo che se poi vogliono andare in Francia e in Germania possono tranquillamente passare perché non ci sono le frontiere. Appunto. Ma no, non li vogliono. Non li vogliono. Beh, poi a quel punto li devono respingere, devono prendere per forza. A quel punto li devono prendere per forza. Beh, e dopo? Vabbè. E dopo, riguardo quel ragazzo, la ragazzina che ha stuprato questo calabrese, mi mi sembra che è vero. Sì, vabbè, allora sei calabrese, che vuol dire? No, dico anch'io sono calabrese. Calabrese di origine, sì, non è che stupro. No, ho 72 anni. Se dovesse capitarmi a me una cosa, a una mia nipote che ha 17 anni, sì, io non gli faccio niente, non aspetto neanche la giustizia. Io prendo la pistola e glielo vado a sparare. Ah, tu aspetta un attimo, dunque, tu, Tino, fai così. Se stuprano tua nipote, una tua nipote, che ha quanti anni? 17 anni, mettiamo che stuprano, per carità, non lo auguriamo, facciamo tutti gli scongiuri possibili. Però dovessero fare violenza, usare violenza nei confronti di tua nipote di 17 anni, prendi, non aspetti nemmeno che. Non aspetto niente, vado lì e gli sparo nelle corna. Gli sparo, l'ammazzo, perché quello lì fa sempre del male. Trarlo fuori dalla gente che fa. E come fai male a spararli? Scusa, così. La pistola. E dove la pigli sta pistola? Me la vado a comprare. Vai a comprare la pistola e gli spari, così vai in galera tu. Ma me ne sono. La coscienza io ce l'ho a posto, perché ha rovinato una ragazza. No, però scusa, ti voglio fare ragionare, non perché mi auguro che stuprino tua nipote, no, per carità. No, ragionare. Assolutamente. Però mettiamo che succede uno che fa una violenza nei confronti di un tuo parente, non diciamo tuo nipote, sennò veramente portiamo male, poi magari succede qualcosa di grave e ci accusano di avere detto delle cose, di aver anticipato delle cose. Allora, la questione è molto semplice. Un tuo familiare subisce una violenza. Sì, tu prendi una pistola e spari. Mi faccio la giustizia da solo, perché qua però io ti voglio è un modo di dire di questo. No, lui questo lo farebbe sul serio, l'istinto è quello. L'istinto di chiunque potrebbe essere. No, ma l'istinto lui non parla solo di istinto, perché qui la giustizia dopo lo mettono dentro, dopo 3 mesi è fuori. E quello va a scopare di nuovo, perché con tutte le troie che ci sono in giro, le puttane che ci sono in giro, va a scopare, no? No, spiegami. Perché devi prendere una ragazzina? Che vuol dire, tu dici con tutte le prostitute, dici che ci sono fuori perché ho capito, perché il problema è proprio quello. Quindi vuol dire che uno è malato. Cioè tu dici, essendoci questa grande offerta in giro e non c'è bisogno, tu dici uno che fa una cosa del genere perché è malato, giusto? Allora la malattia bisogna eliminarlo, perché quello lì c'è sempre malato, oggi ne fa una, domani ne fa un'altra e andiamo avanti così. E che succede? La ragazzina è rovinata per tutta la vita adesso. Lo so, però ho capito, tu poi vai in galera, cioè, ma se non spari me ne frega un cazzo a me che vado in galera. Che cazzo me ne frega? Sono 72 anni e me ne frega un cazzo a me che vado in galera. Ho capito, però per aver ammazzato quello vai in galera. Io vado in galera e questo lo lasciano fuori? No, questo se vai in galera, questo qua è al cimitero, cioè, questo è dentro una bara se vai in galera. va dentro una bara, così non fa più del male a nessuno. L'istinto di Tino da Verona, pubblicità. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Zanzara in questa serata, un po' di casino come al solito tra Islam, olgettine e chi più ne ha più ne metta. Che abbiamo fatto poi, Parenzo? Non mi sono pure scordato che ci sono stupri a Roma, che c'è stato poi, non mi ricordo, sgarbi sulle olgettine, eccetera. Ferrero di nuovo con quello che ha detto alla Zanzara ieri sera. In questo casino pazzesco, beh, amici miei, ritroviamo dopo non so quanto tempo Lori Del Santo. Ciao Lori, come stai? Come siete tutti frizzanti? Beh, ma ci accusano pure, no, stasera non siete, ma io non ho capito. Ma la gente che dice Cruciani stasera non mi sembra in forma, che cosa vorrebbero di più di quello che faccio? Cioè, vorrebbero alzare che l'asticella sia sempre alta. Cioè, che cosa volete? Che mi tiro fuori, no, qualcosa in diretta? Che cosa volete che faccia? Cioè, ditemelo voi che ascoltate la Zanzara. Le aspettative sono altissime, ovviamente. Sono sempre viva alte. La foca, intanto, viva che, la foca. Che c'entra viva la foca? No, sempre viva tutto, la foca. Viva, viva la salute. Viva la vita, viva la vita. Lori del Santo, tra l'altro, signora, sì, lo so, lo so. Lori del Santo, cosa ha fatto? Sta girando innanzitutto la seconda serie per la quale io non mi sono reso disponibile. No, ma guarda, ti posso dire la verità, io ti riservo per la terza serie, perché in realtà quando questa cosa e se ne è parlato, in realtà io non ce l'avevo la parte, perché l'avevo già finito, molto bene. Quindi, però delle D3, se mai ci sarà assolutamente, darà tanto spazio alla cultura, quindi alla voi cultura. Ci siete tutti. Che film è? La cultura è il mio opposto, la cultura. No, non è il film, è The Lady, ma è una The cosa The Lady 2 è la cosa montato... più di moda, più qual diciamo... è la storia di The Lady 2? No, ma qual è una serie, una web serie, ma è una web serie di 10 episodi che però adesso ne ho già fatte 3-10 e ho già montato il primo. Porno soft. No, ma quale porno soft? Ma non hai capito niente. È una cosa intellettuale, il mio film è solo per chi può capire. Intellettuale. No, non esageriamo, non è intellettuale. È molto intellettuale. È talmente il nulla da essere straordinariamente come dire, no, il nulla è intellettuale. Sì, ma si raccontano delle storie talmente talmente surreali, sofisticate, surreali, sofisticate, sì, da essere etiche, da diventare di moda quasi, da diventare di moda. Però io ho chiamato Lori del Santo non per parlare di The Lady, perché se ne è parlato in tutte le salse sul web. Innanzitutto ho saputo che ha avuto dei problemi, si è stata condannata per una causa che risale non so quanti anni fa. 28 per l'esattezza. E che cos'era? Dell'infiltrazione a casa tua lì? Ma sì, no, sai, una volta non c'era l'acqua diretta, c'erano i cassoni, sì, e cassoni. Ogni palazzo aveva una stanza con i cassoni diamante dove l'acqua passava da un cassone all'altro. E t'hanno condannato? Ma io non ci potevo entrare in quella stanza, era una stanza del condominio adibita a mansioni solo condominiali, mai ci potevo entrare. E da lì è successa un'infiltrazione, io ero all'estero e quando sono tornata mi hanno incolpato dicendo... E una causa è andata avanti per 28 anni, 28 alla fine anni, quanti soldi hai dato? Beh, in prima sentenza io sono stata innocente, totalmente. Poi? Sono risultata totalmente innocente. Quindi pensavo finisse lì, perché tanto l'assicurazione invece? Del palazzo doveva pagare. E invece questi hanno fatto il ricorso l'ultimo giorno, dopo i 5 anni. Sì. Non so che è possibile fare il ricorso. Una cosa pazzesca. E l'assicurazione è durata altri 5-10 anni, perché il giudice, prima che ha fatto le complicazioni... Alla fine 20.000 euro devi cacciare. No, alla fine molto di più, perché quando hanno fatto la riconvocazione l'assicurazione ha detto sono scaduti i termini per pagare, e allora i colpevoli erano io o il condominio. E io non c'ero mai entrata lì, era una roba prettamente condominiale, anche se avevo la proprietà. Vabbè, ma senti, ma tu abiti ancora nella... Morale, la spesa 46.000 euro. 46.000 euro? Sì, ma... dopo 28 anni però. Ma ce l'hai sti soldi o no? Beh, in realtà io sono finita in miseria, perché ho pagato già... Come miseria? Beh, per me questi sono soldi che non sapevo dove ritirare. Cioè tu oggi sei miseria? Beh, insomma, non è che tutti hanno 50.000 euro improvvisamente per una causa. No, ma tu in generale non ce l'hai? Sei un po' con la pezza al culo oppure qualche soldo ce l'hai? Cioè, no, io sono una donna sola che mantiene 2 figli senza il padre. E voglio dire, lavoro nella televisione e però quindi... arranchi. No, diciamo che nella televisione da circa 5 anni non stai non bene. È che non sto... io, diciamo, solo, cioè, Conti in banca e... sei in rosso, in banca la sei... D'Urso stanno da dire. No, io finora, siccome io sono una che lavora in tutti i sensi, vedi, sì, faccio il film, faccio la regia, sì, io sono una che lavora e basta. Ma no, non ma cioè, come, i conti come stanno? Bene oppure devi arrangiarti? Diciamo... Ma io sono una persona normale come tutti, quindi non diciamo che c'è stato un grande calo dal punto di vista delle trasmissioni, vabbè, che non pagano, solo gratis si può andare. Lo so. Senti, ma ti voglio chiedere una cosa, ovviamente di Parenzo, di cose che riguardano il sesso, perché poi alla fine sempre là si va a parare, no? Con chi stai adesso? Io sempre con la stessa persona. Da quanto tempo? 2 anni. Da 2 anni. Età? Ma io sono una che non è che salta di qua e di qua. Cioè tu sei monogama? Sei monogama? Single. Sei monogama o no? Diciamo che quando trovo un po' di tranquillità mi fermo, perché anche, sai, vedere un uomo ogni sera e dover attivarsi le sue simpatie, essere sensuale, seducente, strabiliante. Ma la monogamia è contro natura, allora, diciamo. È una roba che mi c'è, cioè, troppo lavoro, diciamo. Ho capito, però la monogamia è contro natura, cioè... Sono d'accordo che ci sono profumi e fiori ovunque da cogliere. Belli profumi e fiori dappertutto da cogliere, è sempre pieno. Io poi che c'ho un occhio speciale, male per le cose evidenti. Però in che senso per le cose evidenti? Eh sì, beh, io vedo anche l'impossibile in un uomo. Addirittura? Sì, se è sexy lo vedo subito. Subito, te ne accorgi subito. Anche se è intelligente. Quanti anni ha questo tuo fidanzato, come al solito? Non so, ultimamente mente sull'età. Come mente? Due anni che c'è, lo saprai. 24. Però in realtà mi diceva 23, poi boh. Alla lo fine saprai. Sì, ma io voglio capire, la verità è che, perché gli uomini, diciamo la verità, a te piacciono gli uomini più giovani perché trombano meglio. Diciamola tutta, alle 20 e 41. Hanno tempo, gli altri... Sono troppo impegnati. Non hanno neanche un minuto di... Ma tu guarda te stesso, chi te trova? Voglio dire, io sono certa che tu sei super impegnato. La donna ti deve aspettare quando puoi, quando ti ricordi di farle un regalo. Insomma, gli uomini di potere si vedono così. Io non sono di potere, però una effettivamente tantum. È vero che non sono presenti. Tu invece vuoi l'uomo presente, vuoi l'uomo casalingo. Io voglio l'uomo costante, tipo... Mamma 24 mia. Su 24. Mamma mia, come si fa a reggere? Ma io sono creativa, non mi piace condividere. E mi questi piace non si annoiano? Sessualmente non si annoiano questi qua? Bah, guarda, in realtà io sono io che li caccio sempre, perché comunque basta far star bene la gente e questa non ti lascia. Senti, è la scelta giusta. Ma sessualmente li appaghi o no? Oppure... Ecco, lì ho una pecca grave, cioè? Che ultimamente lavoro troppo appunto per sopravvivere e questi mi... E fai poco all'amore? Sì, poco. Quante volte lo fai? Chi lavora ha poco tempo di fare. Quante volte lo fai? Una volta al mese? Quanto fai? No, però diciamo che potrei. Questi hanno delle esigenze che vanno oltre, effettivamente. Una volta a settimana siamo. No, questi proprio vorrebbero ogni giorno. Tutti i menu. Cioè, ma io c'ho da fare. Io chiudo la porta a chiave. Ah, ti chiudi a chiave? Ah, sì, perché sennò è un continuo. Sennò questi vogliono trombare proprio alla grande. Mamma mia, che incubo, cioè basta. Lo so. Senti, ma tu hai mai fatto scambismo, per esempio? Anche. Guarda, io ho scambiato solo delle informazioni nella mia vita. Io sono una puritana, in realtà. Lo so, ma tu sai che in America ci sono 4 milioni di scambisti solamente lo in America? Lo so, è terribile, ma io penso bellissimo. Che è allucinante. Io sono anche gelosa, devo dire. Mi darebbe fastidio, non lo so. Oppure preferisco non sapere. So che si fa, si tradisce, ma io non lo voglio sapere. Però quando viene a cadere, a meno che non ci siano degli interessi economici altissimi, allora uno chiude anche due occhi. In che senso, scusa? Beh, se hai i rapporti non è che si basano solo sull'amore puro, che non so neanche se esista più come diamanti. Tu dici se uno si fa pagare, che ne so, se il tuo fidanzato si facesse pagare da qualcuno, se facesse il gigolò per insomma, se facesse no, le marche... No, penso che una donna può stare con un uomo anche per interesse. A questo punto chiude tutti gli occhi, no? Ma tu dici il tradimento sarebbe accettabile, insomma, in quel caso. Beh, diciamo, se una fa l'amante seriale, sa che l'uomo va con la moglie e forse anche con un'altra amante. Allora, oggi la cucinotta ha detto un'altra. No, lei ammette che si possa tradire, diciamo, che si possa fare sesso per interesse, giusto? Cioè assolutamente sì, ma io direi che almeno il 50%. Beh, 50% delle donne lo fa. Ma fanno... non è solo per interesse di denaro, per interesse di carriera. Per interesse, ma neanche per la casa, per avere una casa, per avere... Eh sì, voglio dire, anche quando ci si sposa, che uno guarda mica l'amore, guarda se lui c'ha un lavoro. Per cui le oggettine fanno benissimo, per esempio, avere preso tutti quei soldi da Berlusconi, hai visto quanti soldi? Insomma, io incredibile che ancora si parli di quella cavolata lì, che veramente un'ingiuria all'intelligenza. Su questo sono d'accordo con te. La cucinotta, Parenzo, non abbiamo commentato questa cosa, la cucinotta, rispondendo sul Corriere della Sera, nella pagina della lettera, non so che cosa, ha detto: sento tutti i giorni finanziamenti verso Rom e Prof, ma non sarebbe più giusto pensare ai bisogni di donne che, pur volendo fuggire alla violenza, si ritrovano da sole? Ora io dico, va bene che questo è un sentimento diffuso, cioè si spende troppo per i profughi e per i Rom, non so che, e poco per gli italiani, ma che cazzo c'entra lo Stato pensi prima alle donne e dopo ai Rom e ai profughi? Allora pensi pure ai cani, prima ai cani e poi a quelli, ma che ragionamento è? Cioè, forse la combinazione non è riuscita bene, ma lo Stato pensi prima alle donne e dopo ai Rom e ai profughi, dai, ma è veramente una cosa però, di banalità, diciamo, assoluta. Non so adesso da dove sia uscita questa riflessione, magari è stata riportata male, sai? No, è una lettera al Corriere della Sera, dunque è una cosa scritta come risposta, lei tiene evidentemente una rubrica di lettere, non lo sapevo nemmeno. La violenza nasce dal fatto che chi è innamorato è debole, oppure dal fatto che uno volta le catene proprio economiche, che sa che se non sa dove andare, se se ne vada un uomo violento, c'è sempre la speranza. Sì, ho capito, ma che c'entra quel, non che capisco il senso del legame tra, del legame tra i soldi spesi per i profughi e Roma e i soldi spesi per le donne. Credo che questa sia una cosa anche difficile da stabilire, se non, ma sì, non essendoci dei parametri. Senti, cara Lori, ti vorrei chiedere se tu sei a favore del Bush o della depilazione. Beh, siamo ad altissimi livelli. Io sono qua, per sono il streaming. Sei per? Streaming. Cioè? Cioè, dream, cioè l'aggiustamento. Nessuno dei due. Io trovo che la donna, da quando è totalmente senza, praticamente non è più sexy. Una volta... Intravedevi, molto brava. Immagina adesso io la donna nuda senza non è neanche nuda secondo me, perché non si vede nulla, almeno prima si vedeva col triangolino, quella suspense, ormai non c'è, ormai proprio siamo a livello in cui non c'è più distinzione, non si distingue più, che potrebbe essere non c'è più donna, non c'è più infanzia, non c'è più, non so, non c'è più nulla. Tu sei... secondo me deve esserci un trimming, cioè un aggiustamento, ma ci deve essere qualcosa, dai, diciamo, anche gli uomini mi sembrano polli spellati. No, veramente, io per esempio non sono depilata. Tu, Parenzo, ti depili? Non è che tu ti depili? Beh, un po' sì, secondo me gli uomini devono sistemare, ma totalmente quello senza. Che faccio io in generale, ma tu ti depili o no, Parenzo? Non ho capito. Ti depili o no? Ma figuriamoci, ma non interessa a nessuno, neanche se fosse ma sì o chi no. Te l'ha detto, ma che... gli uomini sono te lo convinti... dico io, non è di mio interesse dirlo se non altro, ma comunque... No, ma volevo sapere se ti depili o no, ma è interessante, no, come merito, cosa, cioè, alle 20:47 vorrei capire se ti depili, non ti depili. Abbiamo capito che non ti depili. Però gli uomini pensano che è una questione di dimensioni, che facendolo sembra più lungo. Sì, gli uomini, alcuni uomini lo intendono così. Narcisismo, ma non è vero, secondo me. Non è vero, sì, non è vero, non è vero. Quello è che è, non è che si può fare l'illusionismo. Assolutamente, assolutamente è così. E vabbè, diciamo che abbiamo esaurito molti argomenti con Lori del Santo, tra cui anche quello, si può dire, recente, uscito, a proposito appunto di allungamento o no, che alcuni dicono addirittura che è piccolo è meglio. Ti ricordi quella Parenzo, quella indagine che era uscita, no? Sì. Come no? Che piccolo, l'abbiamo anche sviluppata con moltissimo col professor Squinzi. Sì. Piccolo è meglio, che dici? Beh, io penso che dipende anche dalle dimensioni della donna, voglio dire, cioè le cose a volte si combinano ma in maniera per la tua esperienza. Beh, diciamo che le esagerazioni in un senso o in un altro sono sempre negative. No, ma tu sei per le in mezzo. Per l'equilibrio, Lori del Santo per l'equilibrio non sono mai visto. Io dai. Sono una mediatrice. Mamma mia. Sì, mamma sono una bilancia, 50% su tutto, odio l'estremo. Vabbè, ti bacio, ciao, a presto. Saluti. Ciao. Riccardo da Udine, vai. Buonasera Cusani, io volevo solo dire che è giusto che i musulmani abbiano dove pregare, sì. Perché come telani ci sono i Geova, gli tantristi, gli ortodossi, è giusto che ce l'abbiano anche loro, però i loro sermoni li devono fare nella nostra lingua, almeno così capiamo anche noi cos'è il precetto dell'Islam, visto che non possiamo capire, no? Se sì, parlano in sì, arabo. Sì, sì. Beh, non vedo il problema, perché dopo questi qua spiegano in mezzo alle strade, noi col camion, sai quante volte ci viene la tentazione quando siamo a Milano, magari che li vediamo che ci bloccano l'incrocio. Sì, è difficile la predica in italiano, però è una cosa che si è sempre detta, no? Dovrebbero predicare. In Germania predicano in tedesco, attenzione. E allora? È giusto che lo facciano anche qua. In Germania è vietato predicare in arabo? Non mi risulta. Ma no, difficile. Non mi risulta assolutamente. Mi sembra difficile. Va bene, Carlo, Reggio Emilia, vai, Carlo. Io proponevo una soluzione ecologica per gli immigrati. Qual è? Togliamo tutti i motori dalle navi a crociere, dalle navi mercantili, ci mettiamo tanti rematori, torniamo alle vecchie galere romane. Cioè, no, spiegami bene. Cioè, no, ci mettiamo i rematori, hai capito benissimo, non devo spiegare niente. No, non ho capito. Abbiamo tanti rematori, mettiamo i remi e con tutti gli immigrati facciamo andare le navi senza usare il petrolio. Ecco. Ciao, buonasera. Cioè, usiamo come nelle vecchie navi romane, usiamo gli immigrati per remare. Come schiavi, come si usiamo come schiavi, giusto Carlo? È così? Va bene, ha abbassato, ha detto la cazzata e ha abbassato il telefono, vai. Ragazzi, 18:30, domani, ciao. Ma io credo che una figa deve essere fatta, cioè tecnicamente parlando, da tutte cose la vedo una figa secondo te. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh.